stavo chiamando a un altro Giulio, invece non fa. Ma è andando sta? No, stavo guardando le partite. Da domani c'è di nuovo tutta la Champions, domani guardiamo tutto. KK. Ma che sto messo, arrivi tu, Ascoltami, mi hai detto che ho un telefunke? Guarda che io ce l'ho telefunke Smart TV, ok? Da 50. E non ha interruttori quel televisore? Fa tutto al telecomando. Anche a me lampeggia la sfia. Schiaccio il telecomando e se la televisione si accende. Capito? Rimane intermittenza quando la televisione è spenta, quando va ad accendere, si accende e rimane rossa, capito? Io pensavo che il tuo problema era quello dell'accensione, però è così, quel tipo di televisore è così. Capito? Perché la mia, quando la televisione è spenta, la spia lampeggia, sta sempre lampeggiando il LED rosso. Quando vado a toccare l'accensione del telecomando, dove tu spegni e accendi la televisione, quel tastino lì rosso, ok, in alto. Adesso non so se il telecomando tuo è universale oppure è originale. Se è originale, tu da dove accendi e spegni? Pigili e la televisione si deve accendere. Sì, lampeggia lui, lampeggia. Alla grande, lampeggia, tranquillo che lampeggia. Quando poi lo vado ad accendere il telecomando che non ti sta funzionando, perché quel televisore non ha tasto di accensione. Capito? Gli Smart TV sono così. Sono così, anch'io mi sono accettato quando l'ho giocato, questo ho pagato quasi 100 euro. Capito? Ed è così, lampeggia, se vuoi io te lo faccio per il video, non ho problemi, però secondo me il telecomando non te lo sta leggendo, non ti sta leggendo quella scheda. Adesso lo spengo e ti faccio vedere che la spia lampeggia, va. Guarda che te l'ho mandato lui. Ma praticamente è sempre, anche quando... Questo quando è spento lampeggia, intermittenza, lampeggia. Quando poi lo spengo, cioè lo accendo, allora la spia si spegne, capito? Però quando è spento è intermittenza, anche il mio. Accende e spegne, no? Allora no, c'è qualche altra cosa che non va a luce. Boh, non lo saccio, no, no, non me ne intendo proprio, guarda. Prova a chiederglielo a vedere, se no devi chiederlo a Vittorio. A Vittorio Giove, a ver qua ti dice. Oh, a Gavino, al cognato di Massimiliano. Un ponte, no, così invece deve essere. Allora io sono imbecille, scusa, ti ha mandato una scheda nuova e invece non è nuova. Sarà tu la culo di scimmia. Lì ti devi appentare lui a vedere cos'è, oppure chiedere informazioni. C'è molto bravo, lo sai, Vittorio. Dovresti avvicinare a lui e chiedere a vedere cosa può essere. Oppure Gavino, il cognato di Massimiliano Bulldozzo, è molto bravo lo stesso. E lì dove c'è Vignucchi, in via Napoli. Prova a documentarti, se c'è qualche amico, te l'ho detto, che ha praticamente, insomma, che conosce quei tipi di televisori, vedi un po', non lo Sciollo, io poco me ne intendo, la verità è... lì bisogna vedere un po' come la situazione. Il mio, te l'ho detto, lampeggia quando è spento, LED piccolino rosso, poi quando avvio la televisione che l'accendo, il LED si spegne, capito? Sì, delle bobine, insomma. Sì, ho visto. Se ronzano lì, lui, allora c'è... non è collegata bene. Può essere la tensione, può essere qualcosa, non lo so, non me ne intendo io, ma così a occhio potrebbe essere quello il problema. Controlla bene lo schema, come va piazzata. Controlla i piedini se sono dritti, se entra bene nei piedini, perché basta un piedino che tocca con l'altro e ti fa ronzare, è come un falso contatto, no? Non dove a destra, così come mi hai mandato la scheda, dove ti ronza, dove c'è quell'avvolgimento fatto rotondo, lì ti ronza. È giallo, quello è un alimentatore, quello mi sembra uno sia un alimentatore, l'altro un trasformatore di corrente, di tensione, se vuoi essere picciti, e da lì è, e allora non è un problema, è un problema di alimentatore, è un problema di alimentatore lui. Mandamelo a vedere. Però se tu ti informi da uno che aggiusta il televisore, dici io ho questo televisore, siccome mi faceva questo difetto eccetera, ho ordinato la scheda, me l'ho cambiata, però fa questo rumore, cos'è, il trasformatore oppure qualche altro problema che c'è? E lui ti dirà se il trasformatore te l'ha mandato che non serve, capito? Sì, sto guardando. Quella luce, qualche problema nell'alimentatore, sicuramente. L'alimentatore che ti ha mandato, sicuramente è quello. fanno male, ti fa perdere tempo. Ti fa perdere tempo, sì. Peccato, io un po' di metterlo a posto e cercare di qual è il problema, controlla bene, spendici un po' più di tempo, gli annaido di passione, che può essere anche una fesseria, visto così sembra una questione di alimentazione, capito? O non sta arrivando l'alimentazione giusta, non lo so lui, senza mettere in dubbio che la scheda sia montata bene, però magari c'è qualche altra cosa, controlla bene col test. Componente Ti devi mettere piano piano a controllartelo tutto, se no ti ripeto. Devi consultare qualcuno che è l'unico che ti può dare un consulto, può essere Vittorio. Ti avvicini da Vittorio e glielo dici che ti stai riparando la televisione, hai comprato questa scheda e perché fa così? Lui c'ha gli schemi, c'ha tutto e te lo dice perché fa così. Mastro Giulio, Ronaldo, ci sei Ronaldo? Basso, basso, basso, Alghero, buonasera, basso, basso, basso. È arrivata? Ho capito, nuova, ho capito, sicuramente stai parlando del radio. Ali Alghero, non c'è nessuno a fare delle prove. Prendi un po' sul 15. C'è Giuseppe, ma non arriva a Sassari. Io non lo sento più. Perché a volte stanno sul canale 15. Aspetta un attimo, stanno parlando. Darsi tu che sia così, ti ripeto, ma io adesso che non ne capisco niente, cosa ti posso dire? Vedendo il video, dal LED che impazzisce può essere l'alimentazione, perché non è stabile come il mio, capito? Quindi o sta entrando troppa alimentazione, o sta entrando poca alimentazione, non lo so lui. Oppure c'è qualche altro problema sull'altra scheda, lì è da vedere, come dici tu solo un tecnico te lo può dire, capito? Io lo so che le ripari le cose. Io lo so che queste cose le fai e le fai con passione, quindi con passione lì devi metterci un po' di buona volontà e controllarti bene tutti i passaggi della scheda, quella che hai montato e anche l'altra, perché ti ripeto, basta un componente che non va e non ti dà il consenso a tutto il sistema, è già successo altre volte. Attento, Marcolino Condo, non tuo pipistrello, sempre Drummond di Gighe. Stava dicendo il pallone che rimaneva fissa. Che rimaneva fissa? È lui, allora c'è qualche problema di tensione. Quando impazzisce così, la tensione li controllati l'ingresso alla scheda, vedete? Fesseria che non dà il consenso, è un vero peccato. Io sarei andato appunto da un tecnico, non ce l'avrei buttato la televisione, sarei andato da un tecnico con la scheda in mano, ho un televisore, me la fotte nuda, però gli avrei tolto piedi lui. Infatti, no, io là non ci vado, o come si chiama, o lui, capito? Bisogna, provo a consultare il cognato di Massimiliano, a ver cosa mi dice, spiegandole così, facendole vedere il video e la scheda, e sento un po' cosa mi dice. Però secondo me tu controlli bene tutte le tensioni. riprovaci e vedi un pochino. Io intanto consulto a Gavino e vedo un po' cosa mi dice. Sì, sì, intanto c'ho il video e c'ho anche la scheda, te la faccio vedere, montata su un telefunke. Sento un po' cosa mi dice, capito? No, non ce l'ho il numero, adesso aspetto che rientri Massimiliano dal lavoro, poi lo chiamo, me lo faccio dare e lo sento, capito? E te lo dico, cosa mi dice lui, capito? Perché ti ripeto, possono essere tante cose. Infatti, non è un tastino accensione, neanche il mio ne ha. Accende e spegne il telecomando. Cazzo, gli stessi fascia il telecomando, non accende più la televisione. Te li mangi? 600 euro ho pagata io, 600 euro da 50, do 52. Capito? 600 euro, smart TV, a quella lui che ha fatto molto laboratorio e bravo anche Giulio, a me mi ha detto che cos'era il mio, ma anche Giulio qualcosa la sa, perché si sta comportando così con la scheda. Tanto non ce l'ha così, ecco, ma non lo so, è che il mio è più grande, quindi sicuramente sono diverse, è diverso il codice. Voi il codice del mio telecomando vedete? La televisione si accende e il LED sparisce, capito? È un segnale che ha, perché io mi ho letto anche il manuale, è un segnale che ha per avvisarti che appunto è in tensione, la televisione è spenta, però è a LED, capito? È un computer quello che c'ho io, un computer. C'è proprio il... Io guardo a volte roba sul coso lì, capito? Un computer, cioè che si attacca il computer dietro, è molto bello come televisore, capito? Non lo so, devi vedere, non lo so, io consulto Gavino, poi ti faccio sapere. E sarà come il mio. Può darsi pure quella luce. Bisogna vedere. Vedere se è quello il problema. Comunque, ti ripeto, adesso consulto a Gavino e sento un po' cosa mi dice, capito? Anche quello è molto importante. Da lì te ne accorgi, capito? Capito? che fanno, non fanno niente. Vabbè. E non devi uscire oggi a casa? Ah, quello è, quello professionale. Ehi. Noi eravamo 3 giorni fuori, siamo rientrati stamattina, venerdì, sabato e domenica. Siamo rientrati stamattina, faccio quel tracco molto, stanco morto, col cane, una rottura di scatole è stata in giro. Vabbè, ho visto che è stato un'imbarriata leva, l'ora di pranzo, stamattina, che ora era, non lo so. Adesso c'è di nuovo il sole. Ha piovuto e quindi già ci sono. Ho visto ce n'erano anche qua nel giardino di casa, figurati. In posti dove le lumache ci sono, che sei tu, già viaggiano. Con gli occhiali mi viene il capogiro, capito, non fa, e quindi non ci vado per quello, capito, se no sarei anche andato vicino qua a farmi una mangiatina, capito, ma le ho già mangiate un paio di volte, non c'è problema. Va bene Lucaria, dai, mi stacco un attimo, lascio tutto acceso se entra qualcuno che mi sta chiamando Ilaria. Ok, ci sentiamo dopo al limite. Ehi, ti faccio sapere, ciao Lucaria, saluta Marina, ciao.